la Polverini non si deve dimettere. Ma perché? Perché no? Perché lei è la giunta, non è il consiglio regionale. Lei ha il suo governo. Se l'ha viste le foto delle ancelle, le vergini, gli Ulisse, il Moito nelle giare, i maiali che toccano le ancelle lì nella le foto della festa di Roma, lì, il toga party del consigliere regionale? No, non l'ho visto. No, ma come no? Gli imbecilli. Insomma, non è che con gli imbecilli si va avanti molto, non so neanche di cosa parla, francamente, perché però ho capito che deve essere qualche puttanata che hanno fatto questi romani. Sì, più o meno questo editoriale stringato più o meno è così. Non cambia la sostanza della puttanata generale che hanno fatto.